Oggi vi raccontiamo una straordinaria storia di impegno civile animalista. Davide Battistini, Ravennate, sta conducendo dal 1 gennaio scorso uno sciopero della fame. Il suo obiettivo è ottenere una legge regionale, in Emilia-Romagna, che imponga il divieto di tenere i cani legati a una catena. La sua, dice, è una battaglia di civiltà. Sto cercando di ottenere dalla giunta regionale, dal governo dell'Emilia-Romagna, che si abolisca la catena come mezzo di detenzione per il governo dei cani. Non significa il far invadere le strade di cani aggressivi e pericolosi, che quelli devono continuare a essere governati correttamente, ma significa smettere di permettere ai cittadini di prendere un cane al canile, portarlo a casa, legarlo alla catena e non slegarlo mai più. Tutta Italia purtroppo ha questa usanza medievale, i regolamenti non sono omogenei come se si parlasse di cani triestini e cani palermitani. I cani hanno tutte le stesse esigenze definite dall'etologia, però ci troviamo ad avere un regolamento come Ferrara che permette la catena solo per 8 ore al giorno, a Modena che lo permette per 24 ore al giorno e addirittura non specifica nemmeno la lunghezza della catena, ma parla di catena adeguata al cane, che non significa nulla. I controlli delle istituzioni o non esistono o sono veramente minimi, per cui i 4 metri di catena previsti diventano spesso 2 o 3. Sanzioni non ve ne sono quasi mai e questi cani vivono una non vita. Ho preso 2 mesi di ferie che ho accumulato nel mio lavoro, passo tutta la mia giornata e gran parte della notte, perché con il digiuno si ha un'esigenza di dormire veramente minima. Io dormo 3-4 ore per notte, lavoro tutto il giorno al blog, a aggiornare il blog, cercare informazioni. Oggi ho scritto la mail al governatore Vasco Errani per chiedergli di intervenire e gli ho detto che il mio sciopero è nelle sue mani, cioè io tornerò a mangiare quando lui deciderà di far propria questa proposta di civiltà. Questa non è una protesta, ma io chiedo che la mia regione, la regione in cui vivo, diventi un posto migliore e spero che una volta che sarà così, e spero presto, nel giro di qualche mese, le altre regioni italiane ci seguano. Ho deciso che la mia vita la dedico ai diritti degli animali, sono una persona progressista di sinistra, credo che la vita non abbia valore per la somma dei giorni, ma abbia valore per come riempi questi giorni. E questo sciopero della fame lo porterò avanti fino alle estreme conseguenze, quindi se il governo regionale e la politica non mi ascolta, dovranno renderne conto all'opinione pubblica, anche perché dietro questa proposta di civiltà, se verrà accettata, non vengono messi in difficoltà interessi economici o posti di lavoro. Dietro la catena ai cani non vi è nulla se non il Medioevo. Basta avere la volontà di scrivere una legge che la Giunta ci mette un minuto a scriverla e un minuto ad approvarla. Le catene che legano gli animali non umani sono le stesse catene che hanno legato e che legano tuttora gli animali umani nei centri di identificazione ed espulsione, nelle carceri indecenti, negli ospedali psichiatrici giudiziari dove i malati mentali vengono abbandonati, negli ospizi dove i vecchi vengono legati per non essere badati e non disturbare. Io mi voglio nutrire in questa campagna da qui alle elezioni di fine febbraio del vostro attivismo nel mondo del web, quindi fate mail bombing, sms, mail, bombardate le redazioni di mail e parlatene con amici, colleghi, fate firmare e firmate la petizione. Il blog di Davide Battistini è scatenarediritti.blogspot.com. Nel blog sono reperibili le istruzioni per firmare la petizione lanciata da Davide, che può essere sottoscritta sia da cittadini dell'Emilia-Romagna sia da cittadini di altre regioni. Restiamo Animali ha già aderito a questa campagna. Thank you very much. Bye-bye.